bello, adoro la strage, un mondo violento, è un mondo felice. Così è e sarà. Dare arte di credere per poter funzionare, negare i tuoi popoli affamati per vederli soffrire. Adoro il massacro, adoro la strage, un mondo violento, un mondo felice. Non è politica vera, esiste solo politica di guerra. Segui la religione, segui la religione, uccide dove ottenere il paradiso, uccide con la benedizione. Fili questi Hitler, fili questi Mussolini, fili questi Stalin, un milione di poverini. Fili questi Hitler, fili questi Mussolini, fili questi Stalin, un milione di poverini. Thank you.